Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Allora, io vorrei partire questa mattina, Nicoletta, ma lo dico anche a Cristiano, va, che è già qua, Cristiano dell'Oste, magari è interessato all'argomento. Ciao! Buongiorno ad entrambi. Grazie. Dicendo un bel tac a tutti coloro che si sono messi in ascolto di Cuore e Denari questa mattina. Lo sapete che cosa significa? Dillo tu. Allora, se non sapete, piace, se non sapete lo svedese, cioè qua se non venite neanche preparati con il minimo sindacale delle lingue. È Cristiano che doveva prepararsi. Allora, tack significa grazie in svedese. Wow. Ed è infatti il titolo che hanno scelto i dirigenti. Adesso mi tocca fare pubblicità, però siccome ci è piaciuta tanto questa iniziativa, la vogliamo raccontare lo stesso, noi non ci formalizziamo e non censuriamo niente, soprattutto quando si tratta di buone notizie. È il titolo che hanno scelto i dirigenti di IKEA Italia per un'iniziativa che ha lo scopo di premiare e ringraziare i dipendenti. Allora, l'annuncio del Country Retail Manager di IKEA Italia, Belen Frau, ha scritto così: vogliamo ringraziare i collaboratori per la loro lealtà, il loro contributo al successo di IKEA lo facciamo attraverso il programma TAC. Sono lieta di annunciare che il versamento di quest'anno permetterà ai co-worker del gruppo IKEA Italia di ricevere un contributo di 899 euro a testa per la propria pensione. Wow! Eccoci qua. Tanta roba. Allora, visto dice che qua abbiamo questo repentino cambio e complicato cambio di governo, sollecitiamo un po' il prossimo che arriverà a sensibilizzarsi su questi temi, visto che probabilmente anche un po' questo no di protesta è arrivato da chi ha dei redditi un po' bassi, magari è in difficoltà economica. Insomma, le interpretazioni che abbiamo letto in questi giorni sono state le più disparate. Allora, chissà che il nostro prossimo governo non pensi ad un'iniziativa del genere. Allora, intanto noi vi chiediamo: a chi volete dire un bel tacco, un bel grazie oggi e perché, se per motivi di cuore o di denari, e come lo ringrazierete? Ce lo facciamo raccontare? Certo. Come? Possono chiamarci all'800240024, mandarci un WhatsApp, un SMS, mandarci un'immagine. Bene. Diteci perfetto. Grazie. Io esatto. Voglio ringraziare, però ringraziamo i nostri ascoltatori che ci seguono. In tanti sempre, ci scrivono fanno sempre. Anche un po' di tam tam. E io voglio ringraziare gli amici che già da stamattina mi hanno fatto gli auguri di buon onomastico. Brava. Io giro a tutti, Nicola. Così te li volevo fare in diretta. A tutti, Nicola, all'ascolto, buonissimo onomastico. Nicola, Nicolini, Nicolette, varie, quindi tanti tanti auguri. Intanto tanti auguri anche a qualche sindaco che si chiamerà Nicola, magari in Italia, che nei prossimi giorni, insomma, controllerà le maratone fiscali della propria amministrazione. Nicoletta, perché qua oggi parleremo, nella parte di approfondimento di denari, della nostra della guida al saldo di IMU e TASI, quindi maratona fiscale in molti comuni d'Italia. Anch'io, anche noi nella seconda parte di Cuore Denari parleremo di maratona, maratona degli auguri, maratona del brindisi, delle cene con amici, colleghi, parenti. Voi come sopravvivete? Che cosa fate? Come li scegliete? Quando gli appuntamenti, gli inviti sono più di uno, come fate a destreggiarvi e soprattutto come resistete e come vi trovate alla fine di questa maratona? Consigli utili nella seconda parte della trasmissione per sopravvivere, ma soprattutto per godersi questi giorni di prefesta. E noi intanto apriamo, come sempre, con una veloce rassegna stampa con le notizie finanziarie. La borsa positiva a Milano, più nel 17%. Devo dire che proprio a parte un pochino di volatilità di ieri, già ha abbandonato tutte le preoccupazioni legate allo scenario politico nuovo che si apre in Italia. Il mercato finanziario oggi in forte recupero. Su tutti i titoli bancari, Mediobanca guida i progressi, più 3,34%. Bene anche A2A, più 2,79%. Intesa San Paolo, più 2,75%. Unipol, più 2,79%, Generali, più 2,70%, Unicredit, più 2,68%, chissà quando farà questo aumento di capitale da 13 miliardi, ma intanto il mercato brinda al fatto che il gruppo di Piazza Gaia Aulenti abbia scelto Amundi, il colosso francese del risparmio gestito, per trattare in esclusiva per la cessione del proprio gruppo di risparmio gestito Pioneer. Poi abbiamo in rialzo i titoli delle banche popolari che ieri sono stati duramente bastonati dalla giornata finanziaria, mentre in difficoltà ritroviamo ancora una volta Monte dei Paschi, -2,84%. Qua per la ricapitalizzazione lo scenario è sempre più complesso, sarebbe pronto anche un decreto per un intervento dello Stato, ma qua naturalmente le indiscrezioni fioccano, le certezze sono poche. Intanto quello che si sa è che oggi Marco Morelli, amministratore delegato del gruppo, è volato a Francoforte per fare due chiacchiere con Mario Draghi, con la Banca Centrale Europea, per capire quanto tempo ha per appunto chiudere l'aumento di capitale necessario al gruppo. Lo vorrebbe rinviare, possibilmente non farlo entro la fine dell'anno, ma chissà che cosa gli diranno a Francoforte. Anche Tenaris perde 1,5 punti, Luxottica in ribasso di 1 punto. Sta continuando invece a volare l'euro. Sul dollaro anche oggi vale 1,0764, moderatamente positive anche le altre piazze europee. Voglio segnalare anche che oggi con il Sole 24 Ore c'è un nuovo fascicolo della collana I Quaderni dell'Esperto Risponde. Il numero di oggi è dedicato alla famiglia, matrimonio, unioni civili, successioni e donazioni, temi che interessano davvero tutti noi, quindi ve lo segnaliamo per tutte le risposte di cui avete bisogno per i casi della vostra famiglia appunto su questi argomenti. Ora invece andiamo a parlare di casa, in particolare delle tasse sulla nostra casa. Take me back, I've been away too long. Take me back to my home. Casa Dolce Casa si ripresenta puntuale il 16 dicembre all'appuntamento per i versamenti del saldo per IMU e TASI per le persone fisiche e per le imprese. In molti casi si tratta di versare la stessa somma pagata a giugno, a meno che in corso d'anno non siano intervenute delle modifiche della situazione del patrimonio immobiliare con cessioni, acquisti o locazioni. Avete allora ancora qualche dubbio su questa scadenza? È cambiata la vostra situazione negli ultimi mesi in merito alle vostre proprietà immobiliari? Attenzione, perché dovete comunicare tutto al vostro commercialista, altrimenti arrivano delle sanzioni. 800 24 00 24, vi do subito il numero verde per interagire con noi su questo argomento. L'ospite di oggi, uno ve l'ho già presentato, Cristiano Dell'Oste, il Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno. E Mirko Mione, presidente di Agefis, l'associazione dei geometri fiscalisti. Presidente, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno a tutti voi e agli ascoltatori. Allora, il saldo peraltro di IMU e TASI quest'anno fa i conti anche con una novità importante che riguarda la modalità di pagamento, perché il decreto legge fiscale, il disegno di legge fiscale appunto, prevede che i contribuenti possano pagare attraverso l'F24 ordinario allo sportello bancario o postale anche per importi superiori a 1.000 euro. Poi cercheremo di capire che implicazioni ha questa novità, però prima di tutto Cristiano, vengo a te, andiamo a partire come sempre con l'immancabile ABC di questo argomento. Che cos'è l'IMU, che cos'è la TASI per chi si fosse dimenticato appunto di queste scadenze, anche perché molti proprietari di un'abitazione principale effettivamente hanno potuto tranquillamente dimenticarsi di queste scadenze, quindi dobbiamo rinfrescare un po' la memoria. Certamente, l'IMU e la TASI sono due tributi per così dire gemelli che riguardano chi possiede immobili, abitazioni, fabbricati ad uso diverso da quello abitativo, ma anche terreni, aree fabbricabili, e devono essere pagati con due scadenze che sono consolidate, sono l'acconto al 16 di giugno e il saldo al 16 di dicembre. È prevista ormai dall'anno scorso l'esenzione delle abitazioni principali, le cosiddette prime case, sono quelle in cui il proprietario e il suo nucleo familiare hanno la residenza anagrafica e la dimora abituale. Questi sono i due requisiti che devono sussistere. Si tratta nel complesso di quasi 20 milioni di abitazioni, quindi un pacchetto molto grande di edifici, che però copre soltanto appunto circa un terzo di tutto il patrimonio abitativo italiano. Tutti gli altri, quelli che possiedono appunto seconde case, terreni fabbricati a uso diverso da quello abitativo, devono versare l'imposta secondo le aliquote deliberate dal comune. Questa è l'altra cosa importante. Certo. L'unico riferimento è il sito delle finanze, dove si possono andare a cercare le aliquote, oppure per chi vuole fare prima, da oggi è online sul sito del Sole 24 Ore anche un dossier che oltre al calcolatore per chi vuole appunto calcolare l'imposta con il fai da te, contiene anche il motore per cercare tutte le aliquote. Ma dai, guarda, l'indirizzo... abbiamo fatto questa puntata proprio appositamente, ma neanche lo sapevo. Io l'avevo fatta perché è uscita la vostra guida saldo IMU e TASI, tutte le regole, ma è uscita settimana scorsa, invece esatto. Oggi teniamo a battesimo anche proprio questo servizio online. Sì, peraltro la guida che è uscita la scorsa settimana, a cui tu facevi riferimento, è comunque ancora disponibile online, la si trova, possiamo dare l'indirizzo, che è ilsole24ore.com/, cioè barra inclinata, i Mutasi 2016. Quindi si può scaricare, quindi mi stai dicendo che tutte quelle cartacee che ho io, se le volessi così inviare ai nostri ascoltatori, posso farlo lo stesso, me lo permette? Sono recuperabili, sono recuperabili assolutamente, gli abbonati accedono gratuitamente, per gli altri è disponibile sul sito. Noi vogliamo festeggiare così oggi l'onomastico di Nicoletta, distribuendo queste guide appunto a chi ne ha bisogno, perché sicuramente ci sono molti contribuenti italiani che hanno delle situazioni immobiliari, fortunati loro sicuramente, un po' complesse, ma magari loro non si considerano tali, perché poi districarsi in questa giungla fiscale legata appunto alle proprietà immobiliari non è facile. Mirko Mion, effettivamente le situazioni particolarmente complesse in questo 2016 quali sono? Leggevo appunto anche dalla guida proprio che citavo poco fa, chi ha un immobile storico ha una situazione fiscale da gestire un po' complicata, chi ha immobili inagibili, chi abita in un fabbricato di nuova costruzione, che cos'altro dobbiamo aggiungere? Beh, diciamo che come è stato detto poc'anzi, la definizione dell'abitazione principale, quindi avere questo concetto ben chiaro, è importantissimo. Poi abbiamo, come diceva poco fa, tutte quelle casistiche particolari, come i cosiddetti immobili inagibili, che quindi con una perizia che li rende tali possono ottenere una riduzione del pagamento dell'imposta. Oppure gli immobili. Ma stiamo parlando per esempio di chi è proprietario di un immobile terremotato? Non c'entra nulla. Per gli immobili terremotati nella realtà abbiamo un esonero completo, quindi niente saldo IMU e niente saldo TASI per tutta la zona del centro Italia. Qui abbiamo tre tipologie, perché purtroppo abbiamo assistito a tre sismi diversi, cioè quelli dell'Aquila, quello dell'Emilia e l'ultimo in ordine di tempo, Umbria, zona del centro Italia. Di fatto sono allo stato attuale tutti esentati dal pagamento delle imposte, sia IMU che TASI. L'ultimo in ordine di tempo, dicevo, ha una scadenza, quindi ha un esonero fino al 31 dicembre 2020, quindi tutta quella zona colpita dal sisma per gli immobili distrutti, quindi quelli inabili totalmente o parzialmente, che sono stati poi oggetto di ordinanze di sgombero, sono esentati dal pagamento. Poi abbiamo altre tipologie, come si diceva poco fa. Dice dopo il traffico, Mion. Oggi dobbiamo interromperla brutalmente più volte, ma qua il tempo vola, il traffico, poi ci ritorniamo. Cuore e denari. Marco Lombardo ne trova una al giorno, insomma, abbiamo arricchito la nostra discografia legata alla casa Welcome Home. E tra l'altro abbiamo messo anche questa canzone perché dai dati che abbiamo avuto ieri dall'Agenzia delle Entrate sta proseguendo, l'abbiamo dato in diretta ieri mattina questo dato mentre veniva divulgato, sta proseguendo il momento positivo per il mercato immobiliare residenziale in Italia. C'è una domanda di abitazioni in aumento, prezzi stabili, e nell'ultimo trimestre considerato appunto dall'Agenzia delle Entrate c'è stata una crescita delle compravendite del 20,4%. Vabbè, adesso senza entrare nel dettaglio, il tema è che però bisogna anche pagare un po' di tasse su queste case, non se si è proprietari di un'abitazione principale, quantomeno siamo esenti da IMU e TASI, Cristiano Dell'Oste. Sì, esatto, a meno che l'abitazione non sia una di quelle, ma pochissime, parliamo veramente di meno dell'1%, che ricadono nelle categorie catastali di pregio, cioè le A1, A8 e A9. Castelli, esattamente. Di questo, ecco. Sì, oddio, castelli sono molto rari, può capitare magari qualche A1 in qualche abitazione signorile in centro, che magari ha anche perso le caratteristiche, diciamo, di assoluto pregio che aveva quando è stata accatastata, perché poi gli accatastamenti risalgono a volte anche alla prima metà del Novecento. Allora in quel caso potrebbe essere che la casa è ancora in A1. C'è da dire una cosa, tu citavi giustamente il dato dell'Agenzia delle Entrate sulle compravendite. Ecco, chi compra un'abitazione e vi trasferisce subito la residenza, beh, non ha problemi, quella è abitazione principale e quindi è esente. Se però vengono fatti dei lavori di ristrutturazione, magari anche brevi, oppure semplicemente perché passa un po' di tempo tra il rogito e il trasloco e quindi il momento in cui si prende la residenza, ecco, quello è un caso che determina spesso degli errori nel pagamento. Perché? Nel momento in cui io compro, finché non trasferisco residenza e dimora nella nuova abitazione, quella è una seconda casa. Quindi anche per 2-3 mesi o un mese soltanto devo ricordarmi di pagare l'imposta. Benissimo. Questa è una cosa che i comuni verificano facilmente perché hanno sotto mano ovviamente i registri di anagrafe e hanno sotto mano ovviamente le compravendite. Sì, no, stavo invece, volevo chiudere il ragionamento che stavamo facendo con Mirko Mion, il nostro presidente dell'Associazione dei Geometri Fiscalisti, perché tra le situazioni appunto un po' complesse da tenere in considerazione c'è anche quella che lui stesso mi ha segnalato, magari non riguarda una platea molto ampia di contribuenti, ma vale la pena appunto sollevarla, la questione degli imbullonati, quindi parliamo di titolari di attività produttive, Mion, che devono tenere in considerazione quali aspetti quest'anno, di che cosa stiamo parlando esattamente? Sì, è vero che sono interessata a una platea non così ampia, però è una vecchia querelle che ha generato numerosi ricorsi, numerose sentenze, definitivamente la legge di stabilità ha posto una parola fine. Gli imbullonati sono i cosiddetti macchinari, quegli impianti che sono in qualche modo ancorati al suolo o incorporati nella stessa costruzione produttiva. E sono funzionali al processo produttivo, quindi. Esatto, però che sono un tutt'uno con l'edificio praticamente, quindi quasi da considerare sono un tutt'uno con l'edificio, quindi sono considerati un po' come un pavimento, delle mura, una parte dello stabile. Allo stesso tempo queste linee produttive possono essere smontate o trasferiti, quindi possono essere, come dire, o venduti o sostituiti. La legge di stabilità ha posto, come dicevo, fine a questa questione, andando a dare la possibilità alle imprese che hanno questo tipo di questa tipologia di linee produttive di essere eliminati dalla stima diretta. Va ricordato che la rendita catastale degli immobili censibili nelle categorie catastali del gruppo D ed E, quindi di fatto poi quelli produttivi, viene effettuata tramite una stima diretta. Precedentemente nella stima venivano inseriti proprio questi cosiddetti imbullonati. Ora c'è la possibilità di rifare una stima, di presentare un nuovo DOCFA, quindi una pratica che va a riaccatastare l'immobile, diminuendo la rendita, quindi sottraendolo del valore di questo impianto. Va precisato che questi impianti non vanno intesi come gli impianti di condizionamento, gli impianti di aerazione, gli ascensori, sono di fatto quegli impianti come ad esempio le turbine, i carri ponti, le gru, gli altiforni, che possono quindi essere scomputati dal valore. Claro. L'importante è che questa pratica DOCFA sia presentata entro il 15 di giugno di quest'anno, perché altrimenti la possibilità dell'applicazione della nuova rendita decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo. Quindi per gli imprenditori che non avessero ancora fatto questa attività, non avessero ancora fatto una richiesta per una verifica della rendita, devono adeguarsi ancora la possibilità, ma ahimè a decorrere dal prossimo certo. anno. A proposito di decorrenze, Cristiano, prima della nostra pausa per il giornale radio, si paga entro quanto, che deroghe sono previste, se ci sono, che cosa rischia chi paga un po' in ritardo? Allora, la scadenza per il pagamento è quella del 16 di dicembre, l'abbiamo detto all'inizio. Per chi paga in ritardo ci sono una serie di sanzioni che variano in base all'entità del ritardo. Sono le regole del cosiddetto ravvedimento operoso, che sono state rese molto più vantaggiose per i contribuenti con una serie di interventi legislativi che si sono succeduti negli ultimi 2 anni. Per ora possiamo dire, per semplicità, che chi paga nei primi 14 giorni successivi alla scadenza ha una sanzione di appena lo 0,1% per ogni giorno di ritardo. Quindi diciamo che non è grave se uno vuole aspettare la tredicesima per pagare l'IMU la TASI, cosa che potrebbe essere possibile. A volte i ritardi sono proprio giustificati. Possono esserci problemi di liquidità, diciamo, l'importante è calcolare correttamente. Certo. Poi è chiaro che la sanzione diventa via via più grande man mano che ci si allontana, quindi ad esempio dal 15° giorno al 30° l'1,5%. E insomma, però entro la fine dell'anno non costerà tanto l'eventuale ritardo. Tardo, ci fermiamo al giornale radio con IMU e TASI, torniamo subito dopo. Il segnale orario vi è offerto da Wafer-Lago. Wafer-Lago, dolci emozioni italiane. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. State ascoltando un programma offerto da Aceto Balsamico di Modena del Duca, per un Natale al vertice del sapore. Cuore e denari. È dalle 8 che sto facendo la coda. Ah sì? Di paglia. C'ha la coda di paglia lei? No, no, no. Mi sono presentato. Di Paglia è il mio cognome. Ah, piacere. Senta. Sì? Viene anche lei per farsi fare la carta d'identità? No, no, veramente io sono venuto per ritirare un documento per la pensione. È già in pensione, così giovane? No, pensione di guerra. Guerra, qua la mano, 905, classe di ferro. Tre citazioni. Al valore? No, tre citazioni per debiti, ma questo dopo congedato. Allora, Nicoletta, l'hai riconosciuto? Certo, è mio, il grande Macario. Perché è tuo? Perché è torinese, quindi a Torino, insomma. E allora, l'abbiamo ascoltato. Tutti, lo portiamo tutti nel cuore. È vero, non lo proponiamo molto spesso, non ci capita, ma dovremmo appunto farlo, forse lo facciamo molto volentieri. L'abbiamo ascoltato in questo sketch, un po' di denari. Il motivo per cui ci è tornato in mente riguarda il tema di oggi, la casa, perché Macario amava molto la Liguria, aveva una proprietà nella città di Santa Margherita Ligure, una casa che ora è in vendita. Questa notizia l'abbiamo trovata sulle blog di immobiliare.it. Noi cogliamo l'occasione per salutare il nostro amico Andrea Polo, perché trovano sempre tantissime curiosità legate alle case. E allora, chissà perché è in vendita, magari perché gli eredi dovevano pagarci delle tasse abbastanza consistenti, magari Imu e Tasi in arrivo, no? Cristiano dell'Oste, quindi hanno ben pensato di mettere in vendita questo immobile. A questo proposito, allora, Imu e Tasi, per chi eredita immobili, sentiamo come si deve disciplinare la situazione. Ci fa un caso Franco dalla provincia di Roma, che salutiamo. Franco, benvenuto. Benvenuto, ben trovato anche a voi. Eccoci. Semplicemente tratta di questo: io nel 2012 ho ereditato un appartamento, io insieme ad altri miei 5 fratelli, e in questo appartamento ci abita ed ha la residenza uno dei miei fratelli. Questa è la premessa. Ora mi è arrivata una richiesta di pagamento dell'IMU da parte del mio comune. Del mio comune, sì. Dove è ubicato l'immobile, praticamente. Certo. Ma io dico che non devo pagare, perché in realtà, per quanto ne so io, l'IMU colpisce, vero, il possesso da parte del proprietario. Ma io il possesso non ce l'ho, io sono soltanto il nudo proprietario. Un po' come il canone della Rai. Il nudo proprietario. Si vesta perché prende freddo, dai. Per carità. Franco, grazie, sentiamo i nostri esperti. Cristiano. Ma allora, in realtà adesso bisognerebbe capire meglio, sì. Perché se il nostro ascoltatore, come ha detto, ha ereditato la casa insieme ad altri 5 fratelli, di cui uno vive e dimora nell'abitazione e gli altri no, allora i 5 che non vi risiedono dovrebbero pagare l'IMU ed eventualmente la TASI, se è stata istituita dal comune, sulla quota di immobile, esatto, di cui sono proprietari. Poi il nostro ascoltatore ha fatto riferimento alla nuda proprietà. Allora, se la sua fosse veramente una nuda proprietà, cosa che da come ha posto la domanda non pare, perché sembra una comunione ereditaria indivisa, quindi non dovrebbe essere nuda proprietà. Se però fosse nuda proprietà, allora in quel caso effettivamente non dovrebbe pagare. Il fatto che il comune gli abbia mandato l'avviso fa pensare che sia una comunione ereditaria e che il comune abbia riscontrato che lui ha una quota. Franco, questo però è un caso abbastanza comune, sì, nelle comunioni tra fratelli in cui uno solo vive nella casa e gli altri no. A Franco, diciamo di scriverci. Di scriverci l'indirizzo, perché gli mandiamo la guida. Bravo. Quindi Franco magari troverà, gliela segnaliamo con un post-it appunto la parte che la riguarda. Armando dalla provincia di Pistoia, benvenuto anche a lei. Sì, buongiorno, complimenti e grazie per le informazioni. Grazie, ci dica. La domanda mia è questa: mi è giunta notizia che in alcuni comuni un immobile non abitato, diciamo la seconda casa non abitata, è scollegata alle utenze e debba pagare, cioè possa pagare una IMU ridotta. Risulta questa informazione? Grazie Armando. Allora Mirko Mion, torno da lei, perché prima con lei avevamo sollevato la questione un po' complessa degli immobili inagibili, dove non c'è collegamento, dove non c'è fornitura di luce e di acqua. Possiamo considerare un'abitazione di questa tipologia? Per inagibile nella realtà si intende un'inabitabilità completa, quindi questo deve essere accertato dall'ufficio tecnico comunale previa una perizia a carico certo. del proprietario che, allegando una documentazione e una dichiarazione legata appunto ad una perizia di questo immobile, la può definire inagibile e inabitabile. Quindi il fatto delle utenze, esatto. Il distacco di un'utenza elettrica per renderla di fatto inagibile e inabitabile. Questa relazione l'ho fatta io comunque, non l'ha fatta Armando naturalmente. Rimane comunque da dire che per gli immobili inagibili la base imponibile IMU e TASI verrebbe ridotta al 50%, quindi non si troverebbe in una condizione di totale esenzione. Diverso sarebbe se il fabbricato può essere definito collabente. Per essere collabente però anche qui è necessaria una tra gli imbullonati e collabente lei stamattina Mion veramente ci fa sbizzarrire con dei concetti. Cos'è il cosa vuol dire collabente? Di fatto è un immobile che ha una rendita pari a zero. Potremmo ricordare un po', giusto per rientrare nei casi simpatici degli immobili, quei proprietari di immobili soprattutto produttivi, quindi categoria D del Veneto, che tolsero il tetto al proprio capannone per renderlo appunto collabente, modificando la categoria catastale e mandandolo in F2, quindi rimarrebbe privo di rendita e conseguentemente moltiplicando per zero verrebbe zero imposta indifferentemente dall'aliquota. Ogni proprietà ha una situazione differente, stiamo attenti perché al di fuori dell'abitazione principale si apre un mondo veramente che va esplorato con grande attenzione, possibilmente con l'aiuto di un professionista accanto. Cristiano? Sì, diciamo che nel caso delle abitazioni, quando si parla di fabbricato collabente, sono in genere ruderi o case di montagna in cui è crollato il tetto e situazioni di degrado strutturale anche molto abbastanza importante. Pesante, sì. Allora, senti, prima di andare ai saluti, abbiamo segnalato all'inizio, e dobbiamo ricordarlo, che quest'anno c'è una novità importante, cioè la possibilità di pagare questo saldo entro il 16 dicembre con l'F24 e si può pagare ogni tipo di importo, anche quelli superiori ai 1000 euro. Allora, prima come funzionava? Perché viene considerata una novità tanto importante, Cristiano? Ma allora, diciamo che questo è un po' un caso esemplare del legislatore che a volte fa le cose e poi le disfa, nel senso che dal 1 ottobre del 2014 è stato introdotto l'obbligo di usare l'F24, il modello di pagamento, soltanto in modalità telematica quando l'importo a debito era più di 1000 euro. Adesso, con il decreto fiscale che è già stato convertito in legge dal Parlamento, quindi la novità è a tutti gli effetti operativa, questo limite è stato eliminato. Perciò è una situazione che andava a penalizzare. Quindi anche se vado con l'F24 ma imposta e devo pagare più di 1000 euro, di 1000 posso euro andarci posso con farlo. Un bel pacchettone di contanti, esatto. Senza che nessuno mi contesti nulla. Esattamente, oppure chiedendo a debito sul conto corrente presentando un modello cartaceo, che è la cosa che prima non potevo più fare. Due precisazioni da dire. Questa limitazione non era poi così grave, perché alla fine anche i pensionati poco abituati a usare internet hanno capito che potevano presentare due modelli F24 dividendo il pagamento in due in modo da stare sotto i 1000 euro, o tre F24 se dovevano pagare importi certo. ancora più grandi, e riuscivano ad aggirare il blocco. L'altra cosa da ricordare è che il limite per cui non si può usare l'F24 cartaceo rimane se io ho un modello F24 in cui vado a pagare delle imposte con compensazione, quindi usando per pagare dei crediti che ho verso il fisco. In questo caso, anche se il limite è sotto i 1000 euro, devo comunque usare l'F24 telematico, che vuol dire che se sono un privato devo passare tramite un professionista, certo. oppure devo usare l'home banking, devo essere capace a usare i servizi online delle banche. Allora, la parte dedicata di Cuore Denari al saldo IMU e TASI termina qua. 10 secondi di tempo a Mirko Mion, si ha un'ultima raccomandazione da rivolgere ai nostri ascoltatori, che invitiamo a scriverci a cuoredenari@radio24.it, perché lo staff dei professionisti dell'Associazione dei Geometri Fiscalisti è sempre a nostra disposizione per rispondere in via privata, oltre alle guide che abbiamo a disposizione. Mion, 30 secondi, anche 20? 30 secondi per dire appunto che le casistiche sono assai varie per identificare l'immobile come immobile, come abitazione principale, e soprattutto è importante andare a verificare la situazione anche delle cosiddette pertinenze, che quest'oggi non abbiamo parlato, che sono assimilabili all'abitazione principale, e quindi l'intervento di un tecnico esperto in materia catastale, immobiliare e fiscale fiscale come quella, come la figura del geometra fiscalista, è strategico appunto per unire e quindi il combinato disposto della conoscenza dell'immobile da un punto di vista catastale e la conoscenza dell'applicazione delle imposte relative. Grazie a Cristiano Dell'Oste, a Mirko Mion per essere stati con noi. Silvana da Pordenone, Nicoletta, la vuoi salutare ma tu? Ma certo, buongiorno Silvana. Benvenuta a Cuore Denari. Buongiorno a voi. Abbiamo invitato i nostri ascoltatori questa mattina così ad esprimere il ringraziamento che si sentivano di voler fare a qualcuno. Allora Silvana, chi tocca il suo? Il mio, questo tacco lo do al mio sindaco e all'assessore, che è una donna, che mi hanno aiutato in un momento difficilissimo a trovarmi, come si dice, una casa, un posto dove andare a dormire. Li ringrazio con un grande tacco, è stata una cosa che veramente non mi aspettavo, ma in un momento difficile alla fine c'è sempre qualcuno che ti dà una mano. Questo modo loro di aiutarmi, io ho cercato di rendermi disponibile per le persone anziane che vogliono andare nell'ospedale nei passaggi con la macchina. Ecco, di nuovo grazie al mio sindaco di Polcenigo e all'assessore che mi hanno dato Silvana, la mano. Silvana, ci lascia senza parole. Grazie per aver condiviso questa sua storia con noi. Anche perché Silvana dimostra che da bene nasce bene. Brava, infatti. E soprattutto che sul territorio ci sono anche ottimi sindaci, amministrazioni che funzionano e fanno il vero servizio del territorio come dovrebbero fare. Grazie bene, Silvana, grazie tanti auguri. Tante. Bene, allora, noi siamo pronti per festeggiare questo lungo ponte di scorpacciate? Ci siamo quasi. Ma tanto io e te siamo sempre qua, figurati. Beh, mancano in realtà 3 settimane, sono 21 giorni, però sono già iniziati brindisi, cene natalizie con colleghi, con amici, noi non abbiamo ancora fatte. Comunque ci stiamo preparando per questa maratona e allora cerchiamo di attrezzarci per evitare di arrivare il 25 stremati e appesantiti. Ciascuno di noi, lo sappiamo bene, si attrezza mettendo in atto strategie più o meno efficaci. C'è chi salta al pasto, chi punta sull'effetto detox di succhi e tisane, c'è chi va a smaltire le calorie in eccesso in palestra con giri di corsa. Insomma, ditemi innanzitutto cosa vi aspetta, come vi state organizzando per affrontare questo periodo di festa in pieno benessere, e quindi per prima cosa evitando di pagare conti troppo salati. Non mi riferisco solo ai chili in più, quelli li mettiamo in conto, ma a disturbi che possiamo sperimentare proprio subito dopo la cena o a distanza di 2 o 3 giorni quando gli stravizi si accumulano, e quindi quel peso, quella difficoltà a digerire, bruciore di stomaco che tutti noi mettiamo in conto quando esageriamo un po', senza dimenticare il nostro intestino. Noi lo sappiamo bene, le feste il nostro intestino le patisce, d'altronde è un po', ha un carattere irritabile, quindi ce la fa pagare. Allora chiamateci oggi, indica per affrontare la maratona prenatalizia in piena forma, con un'attenzione di riguardo, oltre ai vari Nicola che continuano a scrivere, a coloro che hanno nella pancia il loro vero tallone d'Achille. E quando la pancia chiama, noi chiamiamo il professor Vaira, che prontamente risponde e oggi si è materializzato qua, è addirittura qua in studio. Buongiorno, professore, buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Gastroenterologo, ordinario di medicina interna dell'Alma Mater di Bologna. Professore, iniziamo subito a raccomandare ai nostri ascoltatori di restare con noi perché ne sentiranno delle belle, soprattutto non vieterà niente a nessuno. Assolutamente no, anzi bisogna godere di queste bellissime feste. 800 24 00 24 se avete la pancia, se avete degli inviti a Natale, se state organizzando a casa vostra magari delle sbicchierate con amici, delle bicchierate con amici, ma iniziamo subito a togliere di mezzo alcune false credenze che si sono radicate senza alcun fondamento scientifico e che in qualche modo vanno a complicare il rapporto con il cibo e anche con la nostra salute. In linea con noi abbiamo il piacere di avere il dottor Gioacchino Leandro, che è presidente di AIGO, l'Associazione Italiana Gastroenterologi ed Endoscopisti Ospedalieri. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno Debora, un saluto caro all'amico di Novaira e un saluto a tutti i radioascoltatori. Vedi, praticamente è a casa. Esatto, ci manca solo il bicchiere con qualcosa per brindare, ecco, siamo a posto. Sulle tasse abbiamo detto prima. Dottor Leandro, di recente, esattamente il 26 novembre a Perugia, si è svolto il corso annuale dell'associazione dell'AIGO e una parte dei lavori è stata proprio dedicata a sfatare alcuni miti sulle diete molto radicali. limitati e soprattutto sbagliati. Infatti l'AIGO cerca di e si adopera a diffondere una cultura della sana alimentazione. Mangiamo bene, godiamo anche di quello che mangiamo, come dice il professor Vaire, questo per prevenire le malattie gastrointestinali. La pancia è un po' il tallone di Achille di molti di noi, ci dà sempre qualche problema. E allora, sulla nostra pagina mettiamo tutti i 7 miti da sfatare, ma diamo un'anteprima, ne scegliamo 3, dottore, d'accordo? Così lei ce li commenta. Va bene. Ecco, l'ha chiamato Deborah, questo è il brindisi, ecco, il dicembre è il mese dei brindisi, cin cin dopo cin cin, alla fine della serata il conto può essere davvero salato. Dottor Leandro, che ci dice? L'alcol certamente è una sostanza tossica per l'organismo, ma è sempre una questione di quantità. È ovvio che alcune ditte di vino, soprattutto rosso, può essere... servire come potente antiossidante sul fegato e quindi essere positivo sia per la prevenzione del rischio cardiovascolare e anche appunto come antiossidante che diciamo di cui noi abbiamo molto bisogno per tante cose. Questo però ovviamente questo dire che il vino non è poi così dannoso come si pensa non è una raccomandazione, cioè non stiamo dicendo bisogna bere il vino perché c'è un antiossidante, perché ci sono tante altre sostanze, frutta e verdure innanzitutto, che sono molto più ricche di antiossidanti e molto più salutari. Certamente non ci priveremo del brindisi di Capodanno, dobbiamo stare attenti all'uso degli alcolici in generale. Questo naturalmente vale per i soggetti che non sono malati di fegato. Ecco, questo lo sottolineiamo bene. Devono assolutamente astenersi dal bere ogni sostanza alcolica in qualsiasi quantità. Dottor Leandro, di solito si inizia con un cin cin e si finisce con un buon caffè, la tazzuletta. Il mio adorato. 7000 caffè. Ecco, quelli magari un po' troppi. Li ho già presi. Ecco, perché... brava. Deborah già ci dice: 7000 sono un po' troppe, ma all'AIGO avete anche messo un po' sotto i vostri riflettori il caffè. Il caffè ha per anni diviso medici e ricercatori, quelli molto favorevoli, quelli che invece ne trovavano sempre una sul caffè. Attenzione, fa male al fegato, toglie il sonno. Invece poi devo dire che la ricerca ha promosso questo alimento, dottore, sì, e lo avete promosso anche voi dell'AIGO, giusto? Certo, un uso moderato di caffè certamente ha qualche beneficio sul fegato, perché diminuisce l'accumulo di grasso nel fegato. Diversi studi sono stati pubblicati, anche di recente, quindi possiamo sfatare questo mito che il caffè fa male al fegato. A proposito di caffè adesso, da quando ho visto una puntata di Report, che io adoro, puntata bellissima, aveva fatto un servizio sul caffè defecato. Voi lo conoscete? No. Ecco, allora bravo dottore, perché io lo chiedo ai nostri ascoltatori. 800 24 00 24, c'è un caffè defecato, che non è decaffeinato, non mi sto sbagliando, è proprio defecato. Esatto. Tra l'altro costa un sacco e mette molto a rischio anche, lo diciamo che così diamo un'indicazione, trasforma la vita di un animaletto in una tortura, in un inferno. 800 24 00 24 per raccontarci anche se magari dopo un pasto che fate fatica a digerire la tazzina di caffè vi sblocca. Professor Vaira, funziona ma da certo digestivo? Che sì, ma certo che sì. Giustamente il dottor Leandro, che continua a salutare, ha detto due cose molto importanti. Cioè il buon senso. Dobbiamo affrontare queste feste con grande entusiasmo, ma con un pizzico di buon senso. Allora, intanto poi ci occuperemo anche di Tina, anche dei casi un po' particolari, perché li affidiamo tra poco al professor Vaira. 56, aspetti che le dico, di Tina, che ha un'infiammazione gastroduodenale cronica da vari anni, più un reflusso gastroesofageo di cui con Deborah ormai sappiamo quasi tutto dopo le puntate col professor Vaira. Aggiungiamo anche la stitichezza cronica. Cosa posso fare? Lei ha fatto bene, ha chiamato qui, c'è il professor Vaira, ma io vorrei continuare con un altro mito da sfatare insieme al dottor Leandro. Dottor Leandro, andiamo su con un proverbio. Un bagno rinfresca il corpo, una tazza di tè lo spirito. Proverbio giapponese. Il proverbio non specifica se è tè verde o tè nero, ma noi vogliamo parlare di tè verde, che è un vero e proprio toccasana. Ma attenzione, l'Aigo dice attenzione a come e a quanto lo si assume. Dottor Leandro. Sì, come diceva Dino Vaira, il problema è sempre nel buon senso, nelle quantità. Sì. Perché il tè verde, soprattutto in alcuni soggetti, può essere molto tossico. Ci sono dei casi segnalati in letteratura per cui bisogna stare attenti, magari assaggiarlo, degustarlo quando si ha voglia, ma senza in maniera intensiva assumerlo anche attraverso prodotti di facile consumo come gli integratori. Perché quando noi mangiamo troppo ci sentiamo un po' gonfi, abbiamo la coscienza un po' direi sporca, allora cosa pensiamo? Detossico, ecco, tè verde, tisane, e questo funziona, però attenzione, ecco. Perché noi pensiamo tutte le cose che fanno bene, se fanno bene, allora se io ne prendo ancora di più fanno benissimo, non è sempre uguale, non funziona sempre così. Non farsi la doccia, col tè verde. Neanche il bagno, ecco, neanche il bagno. Io, se mi consente, vorrei dare un consiglio di ordine generale. Ma bravo, certo che sì. Ecco, intanto vorrei scalfire l'equivalenza tra naturale uguale salutare uguale no. Perché ci sono tante sostanze naturali, diciamo erbe e varie, che invece sono molto tossiche e quindi vanno assunte con grande attenzione. Oltretutto queste erbe non sono state testate dal punto di vista scientifico e quindi non si sa bene quale sia il loro uso. Invece abbiamo a nostra disposizione tante erbe salutari e se certamente utili alla salute, che sono la frutta e le verdure che compriamo dal fruttarolo, dal fruttivendolo, soprattutto di stagione a chilometro zero, e sulla frutta e la verdura l'Aigo ci mette sul bollino. Siamo in un'epoca in cui, diciamo, ci sono ritmi accelerati, si vuole tutto subito e spesso risulta molto più facile assumere una compressa o una bustina di integratore, quando invece noi dobbiamo promuovere il corretto stile di vita alimentare, quindi tutto ciò di cui abbiamo bisogno c'è nella frutta e nella verdura di stagione. Allora, questo è una parola di campanilismo. Bravo. Gioacchino è della Puglia, io sono della Puglia, la frutta migliore d'Italia viene dalla Puglia. Adesso, questi pugliesi hanno occupato lo studio. Esatto. Ho assaggiato anche i lampascioni buonissimi. Per le vacanze, invece, per queste feste in cui spesso si esagera nel mangiare, bisogna ricordare che molti di questi disturbi sono legati più che a un eccesso alimentare, a un eccesso di zuccheri nell'alimentazione. Che quindi occhio. Occhio agli zuccheri. Occhio agli zuccheri. Grazie al dottor Leandro, buone feste, buona maratona. Intanto arrivano già le domande. Oddio, tutte le mattine faccio colazione col tè verde, mi devo preoccupare. Ma no, assolutamente. Beva il tè verde che le piace. Un'altra ascoltatrice ci scrive, quando una serata alcolica, mi preparo bevendo una grande quantità di acqua. È corretto? Lo scopriremo dopo i mercati. Intanto tante risposte anche sul caffè defecato, guarda che sanno i nostri ascoltatori, sanno pure il prezzo, quindi ascoltatori di cuore, denari, ecco qua, a tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Aceto balsamico di Modena del Duca, per un Natale al vertice del sapore. Cuore e denari. È da diverso tempo che io, dopo mangiato, c'ho gli acidi, i bruciori di stomaco e anche qualche rotino. Tante cure ho fatto, sa, ma non mi hanno fatto bene nessuna. Ci siamo, allora, bruciore, acidità, gonfiore, nausea, senso di pesantezza. Se il vostro stomaco brontola, si lamenta, vi fa pagare con gli interessi una cena con gli amici, un aperitivo prenatalizio, siete arrivati al posto giusto. Abbiamo il professor Vaira, che tra l'altro, vi ricordo, sarà anche in diretta Facebook con noi dalle 12 alle 12.30, pronto a rispondere a tutte le domande che non riusciremo a passare in diretta, ma intanto 800 24 00 24. Professor Vaira. Novaira. Prima dei mercati ci siamo lasciati con il suggerimento di un nostro ascoltatore che Stefano di Monza, che ci ha scritto: quando ho una serata alcolica, quindi molti brindisi, mi preparo bevendo una grande quantità di acqua. È corretto? Abbiamo fatto delle puntate tutte dedicate all'acqua, che lei, di cui lei ha sottolineato grande anche fautore, i vantaggi terapeutici per alcuni tipi di disturbo che adesso ritroveremo. A Stefano che cosa risponde lei? Beh, che non deve bere serate alcoliche proprio troppo, che non deve bere tanto alcol, non c'è acqua che tenga, altro che storia. Quindi bisogna assolutamente consigliare ai nostri radioascoltatori moderazione, assolutamente enjoy the life, come dicono gli anglosassoni, ma con moderazione. Ricordiamo i vantaggi che Stefano può comunque ottenere dall'assunzione, anche questa moderata, un litro e mezzo, due di acqua. Non si può fare indigestione di acqua, professor Vaira, no. Che può curare anche alcuni disturbi che si riaccendono in alcune stagioni dell'anno, e questa è una delle più frequenti. Quando c'è l'indigestione di queste pasti natalizi, in assoluto, in assoluto. Poi noi siamo fatti di acqua, il 90% è fatto di acqua. Cosa facciamo quando arriva un paziente in qualunque pronto soccorso, in qualunque ospedale dell'Italia? Pensateci, gli mettiamo un po' d'acqua dentro le vene. Pensateci, il primo atto medico che noi facciamo, prendiamo la vena e gli mettiamo del cloruro di sodio, della banalissima acqua. Quindi questa la dice lunga sul valore dell'acqua. Che lei ha suggerito anche per le persone che soffrono di stipsi, di cattiva digestione, e anche di reflusso. Il reflusso è fondamentale. 800 24 00 24 se volete intervenire in diretta con noi anche per parlare di questo caffè, che io devo dire ho scoperto seguendo proprio questa bella puntata su Report, il caffè defecato. Ma i nostri ascoltatori, come faceva notare Deborah, sono assolutamente preparati. Ah, guarda, sanno anche quanto costa una tazzina, ma vogliamo leggere le risposte o ce le conserviamo alla fine della trasmissione? Ce le conserviamo oppure tanto dalla regia ci metteranno in contatto con un ascoltatore che ha bevuto questo caffè proprio. E dice che ha un gusto eccezionale. Eccezionale, però. Vabbè, sul gusto io, ecco, non posso dire nulla, però, che non l'ho mai provato, però diciamo che non sono neanche tanto tentata. Questo caffè, che viene detto anche il Kopi-Luwak, è un tipo di caffè che, pensate, è ottenuto dalla digestione e successiva defecazione delle bacche di caffè dallo zibetto, l'uva che è in dialetto locale. È un onnivoro diffuso nell'Asia sudorientale e quindi questo povero animaletto subisce veramente una vita, cioè è vittima, una crudeltà, perché è chiuso in queste gabbie, mangia solamente bacche, e poi queste bacche che lui defeca vengono lavorate e arrivano a dei prezzi pazzeschi. Quindi l'animalino si nutre, è in cattività, si nutre solo di caffè, veramente. Vabbè, è una tortura, sarebbe già un buon motivo chissà per non berlo. Si è inventato questa pratica. Allora, Mario, oggi vogliamo dare voce ai nostri ascoltatori, alle loro pancia. Abbiamo detto che la pancia è la casa dove nasce e cresce la nostra salute. Ci spiega con parole semplici questo concetto, che sembra una battuta, ma in realtà è frutto di numerosi studi. I ricercatori sempre sono andati avanti e adesso si è riusciti a capire perché la pancia è così importante per la nostra salute, e spiegano anche le ragioni per cui quando siamo stressati, quando qualcosa non va, quando mangiamo male, subito avvertiamo, la pancia richiama, non solo perché è la sede del secondo cervello. Professor Vaira. Infatti mi ha tolto la parola dalla bocca, questo è il problema, è il bello della pancia, è veramente un secondo cervello, quindi noi lì ci passa tutto quello che noi mangiamo, tutto quello che noi metabolizziamo. Per cui nel momento in cui la pancia funziona, funziona la testa, funziona il cuore, funziona l'emotività. Nel momento in cui la pancia non funziona, questa invece è fisiopatologia, c'è un vero e proprio sequestro, come se noi sequestrassimo una persona. La pancia cosa fa? Sequestra il sangue dai territori nobili per smaltire tutto quello che noi mangiamo, e quindi sequestra sangue dai territori nobili cerebrali e dai territori periferici, che vuol dire in soldoni stanchezza, facile irritabilità, nervosismo, dolore, tensione, pancia gonfia, tutto il corteo sintomatologico della pancia gonfia. Abbiamo anche i nostri ascoltatori che stanno chiamando all'800 24 00 24. Lascio a Deborah la scelta. Andiamo a Roma o andiamo a Bergamo? Allora, visto che del caffè defecato abbiamo parlato, rinviamo per un attimo di ritornare sulla discussione e rispondiamo invece alla richiesta di aiuto di Mario da Bergamo. Buongiorno. Buongiorno, sono Mario di Bergamo. Buongiorno Mario, l'ho riconosciuta un po' anche dall'accento. Così, anche se non ce lo diceva. Mi devo complimentare con voi perché tutti i giorni vi sento, è un programma molto utile. Grazie. Volevo semplicemente fare una domanda al professore. Io Ne faccia uno difficile, Mario, che semplicemente l'abbiamo fatto venire da Bologna. Ha lavorato con i due premi Nobel. Facciamogli insegna medicina interna all'alma mater, facciamogli domande difficili. Aspetta, questa è una domanda molto molto particolare. Brava. Mi succede spesso, di sovente, sempre nei periodi invernali, che la digestione è lenta, continuo a digerire, ma quando digerisco, prima che succeda questo, mi gira la testa, addirittura ieri quasi cadevo. Poi mi sono fermato, mi sono seduto, sono andato a prendere un po' di acqua calda, me la sono bevuta e mi è passato. Vedi, ha detto acqua calda. Ecco, volevo dire, a chiedere al professore se era indispensabile, se non utile, andare a fare degli approfondimenti. Grazie Mario. Allora, professor Vaira. Grazie per l'invito alle domande difficili, è il mio mestiere. No, una domanda difficile per me perché mi girano così il capo, Mario. È sempre una cosa preoccupante. Invece ha perfettamente ragione Mario, esattamente quello che dicevo un secondo fa. Quando il nostro pancino, il nostro intestino non funziona, come ho spiegato un secondo fa, viene sequestrato del sangue, quindi quello che lei riferisce è assolutamente vero. Quello che le consiglio è di fare delle diagnosi non invasive, cioè dei test non invasivi, quindi non endoscopia, non gastroscopia, non colonoscopia. Per esempio, iniziare con una banale ma meravigliosa ecografia dell'addome superiore, quindi andare a vedere come sta la sua colicisti, come sta il suo fegato, come sta il suo pancreas, come sta la sua milza. Altro test non invasivo, ne parleremo, per esempio, per vedere se nel suo stomaco c'è l'helicobacter, e quindi fa un test non invasivo. Terzo test non invasivo, per esempio un set ematologico, quindi nel sangue, per vedere se ci sono delle allergie. Ha segnato tutto Mario, e quindi naturalmente queste indicazioni, lei ha sottolineato, professor Vaira, test non invasivi, è un'indicazione che possiamo dare anche agli ascoltatori che si confrontano con questi disturbi. Dobbiamo. Anche senza giramento di testa, ma quando la pancia sembra un po' in panne, in difficoltà, che digerisce male, si gonfia, siamo tutti un po' rallentati, a farne le spese e anche il nostro umore. Ma andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade, e poi facciamo un saltino a Roma da Vladimiro. Cuore e denari. E su sei sempre il più, e giù sei un uomo in più, e su sei sempre tu. Prima di parlare del su, il professor Vaira balla, ma noi vogliamo parlare del su e giù, quando ci ritorna su, invece noi sappiamo che il cibo deve rimanere nello stomaco e di lì partire. Vogliamo salutare Vladimiro che ci fa un po' l'inviato di Cuore Denari a Roma. Buongiorno Vladimiro. Sì, buongiorno. Buongiorno, allora lei ha bevuto? Te devi andare a ridere. Sì, perché è una coincidenza strana, comunque ben vengano le coincidenze. Lo sa che carine. Lei lo sa che siamo un po' streghe, maghe, come fate. Non l'abbiamo mai detto. Allora, Vladimiro, ma lei dove l'ha trovato questo caffè? Ma io vado per lavoro in Indonesia, che è la patria del caffè, però chiamiamolo nel suo, perché non è bello caffè defecato, chiamiamolo Kopi Luwak, il suo vero nome. Sì. Sì, come l'abbiamo detto, proprio di questo animaletto. Quindi in Indonesia, soprattutto nelle isole di Sumatra e di Bali, ma anche in altre isole, è diffuso questo animale, il zibetto comune delle palme, che è un animale molto carino e che purtroppo da quando noi bevitori di caffè abbiamo scoperto questa bontà, questa è stata la delizia nostra e la tortura sua. E la croce di questo animale, perché vabbè, gli ascoltatori credo che lo sappiano, almeno chi ha sentito parlare, è divino, quel caffè è fuori serie, è troppo buono, è carissimo, è troppo buono, è qualcosa di... Si parla di 400 euro al chilo e più. Adesso è diminuito perché adesso purtroppo si fanno gli allevamenti. Adesso certo. Costa molto di meno perché prima si faceva con gli animali selvatici. Adesso sì, devo dire che io che sono un animalista l'idea di... questo non è l'unico, però ecco, io sono assolutamente... Come i polli, sono in batteria sì. Come ma i polli. Ma lei l'ha bevuto adesso. Perché ce l'ha in casa, mi scusi Vladimir. Sì, perché io ogni volta che vado in Indonesia me ne compro una provvista. È troppo buono, ma infatti lo offro agli amici e tutti ne sono estasiati però, perché ha un vago gusto di cioccolato amaro, un retrogusto. Però ha questa grande pecca. Grazie, Vladimiro. Ci mandi una foto. Abbiamo saputo comunque. Una cosa in più. Esatto. Grazie, buona giornata. Allora, professor Vaira, tante telefonate, tante richieste di aiuto. Possiamo anche aiutare i nostri ascoltatori nel riconoscere alcuni alimenti che possono in qualche modo avere un effetto terapeutico e quindi curare quel mal di stomaco, favorire quella digestione che diventa un po' lenta. Io so già che lei mi dirà che non ci sono alimenti miracolosi, però sicuramente ci sono alimenti che non dobbiamo far mancare nella nostra dieta, soprattutto se la pancia è il nostro tallone d'Achille. Professore. Allora Nicoletta, innanzitutto lei è una spione perché dice a tutti che io sballo. No, io sa che sono innamorata degli uomini che ballano perché portateci a ballare, ecco, che fa bene anche al cuore in tutti i sensi. Allora, detto questo, volevo, a parte gli scherzi, dare una buona notizia agli italiani. Noi siamo circa 65 milioni. Questi consigli che noi diamo valgono per 15 milioni, quindi 50 milioni di italiani possono bere il caffè, possono prendere il suo bicchiere di vino, possono mangiare la propria cioccolata senza nessunissimo problema. Ancora una volta la parola d'ordine, la parola veramente segreta è la moderazione. Adesso invece parliamo per quei poverini che invece hanno una cattiva digestione, hanno la pancia gonfia. Quali sono gli alimenti che noi suggeriamo? Il buonissimo pane, la buonissima nostra pasta, il buonissimo pesce che abbiamo, la buonissima carne che abbiamo. Quindi non abbiamo in realtà dei limiti. I limiti ce li abbiamo molto di più negli alimenti cosiddetti cattivi, ma che ribadisco, non vanno assolutamente tirati via ai poveri 50 milioni di italiani che non soffrono di malattia da reflusso, che non soffrono di pancia gonfia. Allora, ripetiamo a beneficio dei nostri ascoltatori come si arriva ad una diagnosi di reflusso e come si scova l'helicobacter. Sono due situazioni diverse ma che a volte si intrecciano. Professore. Sono due situazioni diverse. In realtà il corteo sintomatologico, come diciamo noi, è overlapping, cioè si sovrappone. Quindi pancia gonfia, quindi nausea, quindi dolore, quindi tosse, quindi dolore per esempio al cuoricino, quindi afonia, mancanza di voce, quindi meteorismo, quindi questa incredibile, sgodevole sensazione di mangiare la insalatina a pranzo e di sentirsi avere il pancino di nonna papera. No, peggio, di Obelix, che ha mangiato un paio di cinghiali. Non ce l'abbiamo noi comunque. Allora, come ci sono degli esami che però permettono al medico di diagnosticare esattamente la situazione? Il dottore resta sempre sovrano, adesso parliamo seriamente. Quindi i signori che hanno questo tipo di simbologia devono andare da loro bravissimi medici di base. I medici di base, ringraziando il cielo, grazie alla ricerca, noi abbiamo messo a disposizione a favore dei medici di base dei test non invasivi. Quindi noi non vogliamo disperatamente fare delle catture cattivissime come hanno fatto per esempio questi animaletti del caffè ai nostri pazienti. Quindi se è possibile evitare test invasivi, quando dico test invasivi alludo ovviamente all'endoscopia, Dio me ne toglie, io lo faccio tutti i santi giorni, ne faccio 3.000 l'anno, ma dobbiamo assolutamente fare test invasivi, quello che insegno ai miei ragazzini di 21 anni, a chi ne ha bisogno. Non a tutti in maniera indiscriminata, mentre a chi ha questi disturbi facciamo dei test non invasivi, è quello che abbiamo poc'anzi ricordato. Giulio ci chiama dalla provincia di Latina, buongiorno Giulio, benvenuto. Buongiorno. Eccola. Volevo intanto complimentare per la trasmissione, per tutti i giorni che spesso la sento, eccetera. Volevo chiedere se c'è una correlazione tra il fatto che io mangio di tutto, non ho grandi problemi, sono anche magro, tra diciamo così le assunzioni diciamo di pasta, legumi, magari in qualche giornata un po' più abbondante, e qualche extrasistolo che mi capita quando dopo pranzo a volte faccio il classico riposino. La pennica, che bellezza. Giulio? Qualche oretta, sì. Qualche oretta passa, però sento queste palpitazioni, questa specie di, non so se è cardiopalmo, oppure se ho chiesto a qualche amico medico, forse qualche extrasistole, eccetera. Volevo sapere se c'è una correlazione diretta con... E che cosa può fare? Grazie Giulio, bella domanda in un minuto. C'è la correlazione. Ancora una volta, il nostro intestino, come diceva la Nicoletta, è veramente il nostro secondo cervello. Quindi quando gli arriva più cibo della norma, lui fa fatica, giustamente, deve smaltirlo, e quindi come reagisce? Reagisce richiamando quanto più sangue possibile. Cosa significa? Significa che Giulio c'ha la sonnolenza postprandiale, che è uno dei sintomi più tipici di chi soffre di mal di pancia. Qual è il rimedio? Mangiare un pochino meno, mangiare possibilmente lentamente e, mi perdoni la Debra, la Nicoletta, bere quella santa, meravigliosa acqua normale del rubinetto tutti i santi giorni. Quella del sindaco. Noi andiamo a centimetro zero, esatto, a millimetro zero, esatto. Noi ci salutiamo. Professor Vaira, buon Natale. Lui fa adesso la diretta Facebook con i nostri ascoltatori. Voi. Va bene, vi faccio delle domande da lì.